sentir palpitar. I nostri amor vogliamo festeggiare. Eccoci qua, buongiorno, finalmente siamo a giovedì. E ci siamo in radio, il Teatro Valle Occupato, diciamo, come al solito siamo 200 qua dentro. Io non so Federico come fa, come fai Federico? Fa. Va bene, allora oggi è una puntata bella complessa, una giornata ricca proprio. Allora è San Valentino e questo ci piace un sacco. Teatro Valle. Esattamente. Abbiamo le prove aperte tutti i giorni di Binasco che ci parlano d'amore, perché sta provando il riallestimento di Romeo e Giulietta. E poi che altro? Romeo. E poi non solo, però c'è una giornata d'amore, ma anche di lotta, di grande lotta. Oggi è una giornataccia da questo punto di vista, perché da una parte noi al Valle abbiamo rilanciato la commissione Rodotà, di cui vi parleremo ampiamente tra un po', però dall'altra c'è una notizia che non ci è piaciuta per niente di sentire stamattina, ovvero il Teatro Pinelli a Messina è stato sgomberato. È stato sgomberato e sotto sgombero, purtroppo hanno sigillato le porte e stanno, come dire, alzando con i mattoni, chiudendo finestre e le entrate. E la città ha risposto in massa, e questa è la testimonianza che quella occupazione non è un'occupazione, come dire, come la descrivono di pochi facinorosi che non sanno che fare, ma è un'occupazione cittadina, perché sono accorsi lì davanti, la strada attualmente è chiusa, sono accorsi centinaia di cittadini, gente normale, di bambini, di signore anziane, di professori universitari, di studenti, che stanno manifestando il dissenso per questa azione assolutamente immotivata. Tra l'altro con un dispiego di forze pubbliche inaudito, camionette della polizia, Digos, elicotteri, agenti antisommossa, eccetera. Adesso sentiremo Giulia Giordano, che è una occupante del Valle, che è appunto di Messina, che è stata vicino fin dal primo momento a questa lotta ed è passata quindi lì a lavorare per la comunità, che ci racconta che cosa sta accadendo. Siamo qui in questo momento a decidere cosa fare del blocco, perché in sostanza la Digos ci vuole ricattare per l'ennesima volta, pretendono che noi togliamo il blocco per ridarci le nostre cose, perché in questo momento dentro il teatro abbiamo un tantissimo materiale, opere d'arte, cose che non sono neanche nostre, che fanno parte di questa occupazione, che fanno parte dei nostri progetti, che però in questo momento stanno murando questo teatro, e quindi noi in questo momento stiamo decidendo. Però l'intenzione generale, l'intenzione comune è di non togliere il blocco, ma che il blocco noi non lo togliamo finché non ci ridanno tutte le cose che dobbiamo restituire alle persone. E in più poi alle 16 facciamo qui la conferenza stampa e rimaniamo tutta la notte qua davanti a fare capire quello che sta succedendo in questa città. Quindi in questa città dove non avviene mai nulla, in questa città dove la mafia, la massoneria continua a governare, e la droga ogni giorno si porta un sacco di persone, noi abbiamo riaperto un posto, lo stiamo ristrutturando con le nostre forze, e adesso invece arrivano con sei camionette di Cellerini da Catania, elicotteri, forze dell'ordine dispiegate con delle modalità assurde, per sgomberare una cosa città, bellissima. E qui la società civile non si arrende e non si arresta. Siamo qui sulle strisce pedonali della città principale, della via principale di Messina, da dove passano tutti i tir, e stiamo facendo un blocco stradale da più di 2 ore, e qui sicuramente da qui non ci possono portare via. Senti, prima rimaniamo qui e continuiamo domani a rilanciare, domani saremo in piazza con gli studenti medi e questo posto ce lo riprendiamo. Giulia, se non riusciamo domani lo facciamo il giorno dopo, perché qua siamo tantissimi e stiamo cercando di essere sempre di più. Senti Giulia, ti chiedevo una cosa, ma sono state date delle motivazioni per questa azione di questa mattina? No, le motivazioni fondamentalmente sono inagibilità, occupazione di luoghi pubblici, le solite dichiarazioni che lanciano loro. Ci sono i dieci mostri di cui faccio parte, che sono dichiarati appunto occupanti, abusivi e cose del genere. E tutta invece la nostra lotta ovviamente viene messa. Tra l'altro c'è pure un punto di questo documento in cui si dice che le condizioni in cui si trovava il teatro sono state scoperte soltanto grazie alla nostra occupazione, perché dobbiamo ricordare agli ascoltatori che questo è un teatro appunto che fa parte di uno spazio del demanio ed era chiuso da 17 anni. Noi quando siamo entrati per liberarlo abbiamo trovato un cratere, non abbiamo trovato un teatro. Abbiamo trovato un buco sulla platea e lo stiamo ristrutturando noi con le nostre forze e con tutta la società civile che ci appoggia, insieme al Genio Civile, insieme all'Ordine degli Architetti di Messina. Cioè, stiamo facendo qui un progetto serio, e proprio perché siamo seri noi facciamo paura alla mafia e alla massoneria di questa città. Eh beh, questo ci pare evidente, perché gli interessi lì sono purtroppo interessi prevalentemente economici e di pochi privati su tutta quella intera area. Ecco, perché poi una cosa che non vi ho detto è che oltre il teatro abbiamo occupato il Re Mare, che era uno spazio dove fino agli anni 50 si svolgeva il Festival Internazionale di Cinema dello Stretto di Taormina. Adesso, dal 94, da quando è stata istituita l'autorità portuale, è un posto gestito in subconcessione da dei privati. Fondamentalmente lo affittano a 3.500 euro a sera, e questa cosa è gravissima, uno spazio del demanio. Noi l'abbiamo riaperto gratis, ieri c'erano due giorni fa per la festa di carnevale, c'erano 50 bambini con altrettante famiglie, rom, marocchini, filippini, di tutti i tipi, di tutte le classi sociali, in un posto finalmente aperto, e loro ce lo bloccano perché stiamo facendo una cosa incredibile, assolutamente nuova in questa città, dove anche il Teatro Vittorio Emanuele, l'unico teatro diciamo importante, viene bloccato con la scusa che non c'è, la stagione viene bloccata con la scusa che non ci sono soldi. Ma senti, delle Giulia, cose dove gli orchestrali sono lì a presidiare da due mesi e non ottengono nulla, cioè siamo in una città morta. Giulia, ma io voglio sapere una cosa, voi avevate paura, avuto ovviamente, quindi siamo qui a continuare questo blocco stradale. Sì, ma voi avevate avuto anche l'interessamento del presidente della regione Crocetta, il neo presidente. Esatto. Allora, siccome oggi c'è Presti è un suo candidato al Senato qui a Messina, ovviamente sono stati preallertati questi personaggi, e nessuno di loro è venuto qui. Dopo essersi aperti la bocca in campagna elettorale, sono andati a dire in giro che il Pinelli, grazie a noi, è resuscitato, che diventerà l'avanguardia dei teatri off, tutte queste stronzate. Adesso però in piazza loro non ci sono. Gli unici che sono visti, i politici, sono stati quelli del quartiere, che fin dal principio ci hanno appoggiato, hanno fatto pure un'assemblea straordinaria il nostro sostegno. Vabbè. Gli unici politici che sono visti. I famosi gattopardi, purtroppo. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Che prospettive ci sono rispetto alla risoluzione di questa attuale chiusura del Pinelli? Cioè, pensate di poterlo restituire alla cittadinanza, che possa succedere qualcosa? Sì, assolutamente sì. Se lo vogliamo assolutamente riprendere, questo è uno spazio che deve essere di tutti, non dell'autorità portuale. Oltretutto, noi da col Bene Civile abbiamo fatto tutta una battaglia anche sul discorso dello statuto regionale, dell'articolo 32, che prevede, che è riconosciuto dall'articolo 116 della Costituzione, e questo articolo prevede che tutti i beni del demanio marittimo siano gestiti dalla regione, non dall'autorità portuale. L'autorità portuale qui è super potente, addirittura in questi giorni sono allargati e hanno cercato pure alleanze con quelli di Reggio Calabria, e di qui hanno il porto di Messina, tutta la zona della costa più tutta la zona della costa di Milazzo. È l'unico ente ricco di questa città, e hanno contenziosi con il comune, con l'ente fiera, con tutti. Addirittura il comune deve pagare dei soldi per la concessione degli spazi, per dire la passeggiata al mare, spazi aperti. Il comune paga degli oneri di concessione all'autorità portuale. Le famose battaglie sulla privatizzazione, purtroppo, delle proprietà pubbliche è questo. Cioè, il paradosso è che fra po' dovremmo pagare noi le proprietà pubbliche. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, l'ultima veramente. Tu sai che qui a Roma Scoop, dopo che era stato appunto sgomberato, è stato rioccupato ed è stato restituito alla cittadinanza. È verosimile, sì, certo, lo sappiamo. Ecco, è verosimile che riuscirete a farlo anche voi con la forza necessaria? Sì, è quello che vogliamo fare. Infatti noi qua il presidio lo manteniamo, e appena abbiamo le forze, domani con gli studenti medi o nei prossimi giorni, ovviamente ce lo riprendiamo. Siamo pronti con i picconi, non ci facciamo intimidire da quattro sigilli e dai mattoni. Bene. Sicuramente non ci facciamo intimidire. Buona lotta, Giulia, grazie. E questa è la battaglia per i beni comuni che abbiamo iniziato proprio oggi. Grazie. Qui a Valle è ripartita anche in sede istituzionale. Ora ce lo racconto. Sì, ci ha chiamato Ugo Mattei, ci ha detto appunto che stanno scrivendo un documento in nostro sostegno. Esatto, insomma, esatto. Sono tutti hanno firmato da tutti quelli che facciano parte della commissione. Molto felici. E questa è la prima importante. Volta che Messina si sente così unita al continente. Ciao Giulia, porta il sostegno di tutti noi da Roma al Pinelli di Messina. Ciao. Ciao. D'accordo, un bacione da tutti, ciao. Intervento che era extra valle, che ci piacciono tanto questi giri per l'Italia, a sentire che succede negli altri posti occupati, nel bene e nel male. Allora, io vorrei introdurre quello che è un po' il filo conduttore di oggi, cioè da una parte abbiamo la politica e la lotta con Rodotà, e dall'altra c'è l'amore, e vi vorremmo raccontare quello che è successo a Ferrara qualche mese fa, ad ottobre, quando abbiamo portato questa bellissima avventura, che ancora è completamente in fieri, in trasformazione, da fare, eccetera, eccetera, che si chiama Tutto il nostro folle amore. Allora, adesso noi tutto il nostro follamore lo raccontiamo un po' tutti insieme, giusto? Non lo racconto da sola. Sì. Come ci piace fare qualunque cosa. Sempre. Esattamente, esattamente. Questo è esattamente quello che è successo durante le prove. O meglio, qualcuno faceva una proposta, qualcun altro diceva subito no, a me non mi piace, quell'altro faceva ma no, ma allora parliamone un po'. Insomma, l'assemblea continua, perché a noi ci piace così, ci piace così. La famosa regia che era intelligenza collettiva. No? Esatto, un'intelligenza non ve lo dico, però insomma qualcosa è uscito fuori, è stata una bella cosa. Quindi chi racconta come abbiamo lavorato su tutto il nostro follamore? Beh, io farei parlare Fiammetta, che è quella che si è inventata una sorta di training per preparare lo spettacolo. Brava, parlare dei curriculum, come no? Vai, avvicina. No, cioè nel senso, io insomma sono sempre stata un'attrice, non mi ero mai messa fuori a osservare gli altri e a proporre qualcosa, diciamo, a livello di proposta di regia. Semplicemente penso di aver fatto quello che poi abbiamo fatto tutti, no? Ho osservato attentamente e ho sentito che a un certo punto avevamo tutti bisogno un po' di raccontarci e di raccontare le nostre vite singole come individui, no? Con le nostre piccole cose, e quindi abbiamo inventato delle piccole autobiografie, così le abbiamo chiamate, brevissime, in 60 secondi. Sì. Che però non erano parlate, ma erano mosse. Usavamo il corpo, abbiamo usato il corpo per raccontarle. Abbiamo usato anche le parole, ognuno di noi ha catturato dei momenti forti, oppure no, della propria vita. Tutto il nostro folle amore si ispira ovviamente, o meglio, non so se è ovvio, però ai comizi d'amore di Pasolini. Quindi abbiamo voluto mettere insieme anche questo aspetto qui, quello proprio dello stare in mezzo alla gente, di metterci a parlare con le persone. E a Ferrara, e non solo a Ferrara ma anche a Roma, in occasione di questa cosa, sulla scia insomma dei comizi d'amore, abbiamo intervistato anche delle persone. Esattamente, perché l'aspetto diciamo fondamentale era quella dell'indagine performativa, cioè partendo in qualche modo da un'indagine sul tema così omnicomprensivo dell'amore, si ragionava su come stiamo oggi, che cos'è la società italiana oggi, che cos'è un individuo oggi dentro questa società e dentro questa crisi che stiamo vivendo e qual è il suo rapporto con gli altri, quindi poi come genera lotta, come genera incontri, come genera situazioni collettive. In questo senso, come Pasolini analizzava l'Italia degli anni 60, noi abbiamo provato a modo nostro ad analizzare l'Italia degli anni 10 nel 2000. Da questo punto di vista è stato fondamentale anche la disposizione spaziale che ci siamo dati, nel senso che siamo stati invitati al Festival Internazionale a Ferrara, che è un festival che coinvolge tutta la città in vari punti, e abbiamo individuato in questa città vari punti nevralgici, varie piazze simboliche che avevano un senso per la vita della città e per la geografia urbana, e abbiamo in ogni piazza fatto un lavoro differente. Quindi siamo partiti da Piazzetta Sant'Anna, dove appunto si sviluppavano queste nostre biografie, e poi alla fine di tutto l'intervento siamo riusciti a trascinare una folla di persone attraverso la città e portandola nella piazza centrale, quella dove avvengono i matrimoni, dove appunto si è svolta l'indagine di comizi d'amore. Successivamente li abbiamo portati nel giardino delle Duchesse, che è un bellissimo giardino che normalmente non è accessibile alla città se non in certi momenti, e alla fine nella piazza Castello, quella più grande, su un palco. Quindi di fatto il momento più performativo teoricamente doveva essere quello sul palco, ma in realtà è stato tutto quello che si è sviluppato durante il giorno, e avevamo questo pubblico che ci seguiva, ci veniva dietro, ci fermava per strada, che partecipava direttamente alle performance. Dopo un comizio d'amore abbiamo creato un vero e proprio corteo d'amore. Esattamente. Allora, quindi, adesso che abbiamo un po' raccontato che cosa è stato Comizi d'Amore, diciamo che partiamo un po' con alcune cose che sono uscite fuori, dei racconti di quello che è stata questa giornata, però la intercaleremo anche con la Commissione Rodotà, con degli interventi registrati di questa Commissione e non solo, perché dentro ci abbiamo un po' messo delle cose molto valliche, diciamo così, e poi ci siamo inventati anche, visto che oggi è San Valentino, dei piccoli baci perugina sui beni comuni, che insomma vi faremo ascoltare nel corso della puntata. Quindi adesso una puntata molto dadaista, sì, assolutamente, assolutamente. Più improvvisazione di così, penso che siamo okay. Noi, quindi. Allora, adesso io inviterei la nostra regia a mandare il primo estratto musicale di sottofondo, che vi lascio ascoltare per qualche secondo. Il bene comune ha delle ragioni che la finanza non conosce. Eccoci, allora io mi ripresento, sono l'astrologa del Teatro Valle Occupato e vi ho fatto un pensiero. Ho deciso di regalarvi un piccolo oroscopo oggi per insomma guidarvi nel vivere questa giornata un po' speciale, questa giornata di San Valentino. Vi chiedo quindi di fare in privato un piccolo esperimento di, io chiamerei, astrologia sensoriale, ovvero io ho studiato in questi anni migliaia di sinastrie, ovvero di oroscopi integrati di coppia, e mi sono accorta che le coppie che funzionano, gli amori che funzionano, sono quelli che rispondono a dei criteri cosmici fondamentali. Quindi ascoltatevi bene, nella giornata di oggi fate questo esperimento. Tutte le volte che vi troverete a fianco una persona dell'altro sesso, provate a sentire come cambia la vostra energia in relazione a questa vicinanza. Se sentite una... E per quelle dello stesso sesso? Vale lo stesso. In realtà qui mi si sconvolge poi tutta la questione cosmica del, vabbè, comunque poi tratteremo anche le diversità. Il cosmo è vario, ma l'astrologia risponde molto a criteri maschio femmina, quindi adesso io mi occuperei di questo. Non fate troppe richieste alla nostra astrologa, ecco, per favore, appunto. Lasciatela continuare, grazie. Quindi se sentite una energia di opposizione, allora siete con la persona giusta. Allo stesso modo, se invece in voi nasce un pensiero del tipo questa persona ha qualcosa che io vorrei avere, allo stesso modo ugualmente vi trovate di fronte ad un incontro fortunato. Quindi ricordatevi ricordatevi il criterio di opposizione e questa sensazione di desiderare qualcosa che l'altro ha e che voi non avete. Provateci e vi garantisco che la maggior parte degli amori falliscono perché vanno contro a delle leggi cosmiche importantissime. Della società degli amici del lavoro. Su, su, su, cantiamo in do, componente al do. Una marcetta. Entra, esce, rientra, riesce, torna e sono due. Camminano. Escono, entrano e sono cinque. Camminano. Si fermano. Occhi negli occhi. Qualcuno non esce mai, qualcuno è fermo e sono 10. Corri! Correre! Corrono! Tutti! Passanti si guardano. Pausa. Via! Chi ha dato inizio al movimento? Corrono! Pausa. Guardami. Guarda! Sono 15. Insieme, da soli, in coppia. Si incontrano, scontrano. A destra, a sinistra. Mi senti? Ti parlo. La mano, si danno la mano. Stanno stretti, serrati. Corteo! E sono tutti diversi. I suoni, le note, le forme. Veloce, lento, ripetuto, ossessivo. Avanti. Indietro. Di spalle. Di nuovo. Assemblea. Le mie gambe pesanti col cemento all'interno. La mia vita è successa volando sull'acqua. Boro, boro, boro, boro, boro, boro. Quest'acqua che brucia, che è fuoco. Lo vedi che sono come te? Mi vedi qui, nel mio corpo liquido e caldo? E parole che portano fuori, ma che invece ci stanno. Assemblea per consenso. Non si vota. Si ascolta. Sagittario, Vergine, Acquario, se non siete pronti a buttarvi sul corpo di un altro senza fargli del male, sarà meglio che cominciate a lavorare sul vostro peso. Si sposta. Il peso si sposta e da lui passa a un altro, e poi a due, e poi a loro. Democrazia orizzontale. Siamo insieme. Insieme si muovono. Alzano un braccio, lo sguardo lo segue. Respiro, uno solo per tutti. Distanti, ma uguali. E tutti diversi. Pausa. Musica. Un piede si muove, ma non sai di chi è. Allontana da sé quello che non vuole vedere. Raggiunge una mano, gli si mette vicino e a forza di andare è accanto a una testa. Si attraversano spazi di carne e di aria. Ci infili la testa. Una mano. Un ginocchio. Vicini, vicini, vicini, vicinissimi. Si girano e guardano. La testa e il bacino e il resto che segue. Si muove, si agita, trema. Veloce, veloce, ancora di più. Si muovono insieme, si girano, girano, girano e... Pausa. La scena ora è vuota di corpi, ma c'è suono, c'è musica. E voce. Ma qualcuno ha dato inizio al movimento. Una mano in testa, un corpo che cede, si stringe, si allunga, si adatta alla forma. Sono nata in una bottiglia e invece volevo vincere l'Oscar. Ma sei brava, sei, sei bella. Sei bella, si vede, si sente. Fatti toccare, fatti raggiungere. Diventa una star. E in 15 allungano braccia affamate. Ora avanzano, avanzano e minacciano il pubblico. Gli stanno addosso. Gli fanno domande, si muovono. E muovono l'aria. Lo vuoi? No. Lo vuoi? No. Lo vuoi? No. Lo vuoi? Basta. Abbassa sto braccio, non cambiare più direzione. La direzione, prendine una, sempre su quella. Occhi, testa, piede, piede. Occhi, testa, piede, piede. Ma che vuol dire sta cosa? Attraverso lo spazio di carne e di aria provo una strada, cambio di posto. Cambiano i ruoli. È autogoverno. E i corpi che cercano un modo si piegano, torcono, girano, abbassano, fermano. Respiro di uno, respiro d'insieme. Denso, addensato, pesante, lentissimo. Respiro sospeso. Li guardi uno a uno e guardano te. Confronto diretto. E cambiano i ruoli. Le mie mani ora sono le stesse che vedo suonare e parlare nell'aria. I loro corpi danzano al mio posto. Non capisco, ma sento. E la musica segna i passaggi. Non c'è da contare, c'è solo da stare, da riempire col cuore gli intrecci di ritmo che si stanno creando. Lento, lentissimo, come lava che scende. Si muovono neri, pesanti, in conflitto. Sembra una guerra silente, dove morti e feriti non è dato vedere, ma dove sai bene che l'assenza di ritmo è assenza di vita. Un diniego. Il movimento è gesto d'accusa. È netto, preciso, tagliente. È lì. E poi lì. E poi ancora laggiù. Ma quanti sono? Perché non si fermano? E non fanno silenzio? Corrono. Corrono, corrono, corrono ancora. Come all'inizio, ancora di più, più forte, più rapido. Ancora più denso. Pausa. Lo spazio si calma, la musica scema. Ognuno torna in se stesso e ritrova la quiete. Ma è calma apparente, un fischio risveglia i riflessi. Il pericolo. Il gioco. La resistenza. La gioia. Quel fischio racconta tutto quello che arriva. I passi veloci si rimettono in moto. Insieme. Diversi. Insieme. Diversi. Al 4 si parte. Ma questa volta si lascia la scena. Scendiamo in città. Allora, che ci mettiamo? Hai un po' di beni comuni. Ecco qui. Un po' di beni comuni, così. Un pizzico di beni comuni. Ecco, fare soffriggere i beni comuni. Il bel soffritto dei beni comuni. Ah. Un audio relativo alla conferenza stampa di stamattina sulla Commissione Rodotà e poi insomma la spiegheremo un attimo più approfonditamente. La ripresa dei lavori di questa commissione per noi appunto è un modo per ragionare su una nuova grammatica dei beni comuni che parta veramente dalla cittadinanza, che parta da chi occupa, da chi vive, da chi attivamente, da tutte le lotte che in questi anni si sono attivate in Italia e non sono solo quelle per la cultura, sono anche quelle appunto per l'accessibilità ai saperi, il diritto allo studio, il lavoro, la salute, il diritto sul territorio. Quindi ovviamente il potere di questa lotta, la possibilità che offre, sono proprio quella di creare una connessione fra tutte queste lotte che sono attive su tutto il territorio, che riguardano l'acqua, come appunto il diritto al paesaggio, quindi ovviamente la NOTAV, la questione del lavoro e della salute ci riporta immediatamente a quello che sta accadendo all'ILVA, e così tutti i movimenti che stanno nascendo in questo momento rispetto alla sanità, rispetto alla scuola, tutte le occupazioni che stanno partendo in ogni paese, in ogni luogo, viste proprio come l'atto dell'occupazione come un luogo costituente, veramente come una possibile azione, un possibile atto politico che serve proprio a strappare questa sovranità. Molto importante da questo punto di vista è appunto anche il fatto di aver scelto per esempio la fondazione, immaginare una fondazione che sia bene comune, quindi dove la partecipazione è l'elemento fondamentale per essere attivi, per prendere parte alla discussione. E per questo motivo questo è stato per esempio appunto una modalità di usare il diritto in maniera costituente, usarlo appunto per dare una forza, uno strumento a una lotta. E allo stesso modo in tutti gli altri spazi ci sono altre modalità e altre attività che rientrano in questo desiderio, in questo bisogno di usare le lotte e il diritto in una maniera che veramente sia dirompente. Bene, questo era l'audio di un intervento tenuto a Teatro Valle riguardo la rete di teatri occupati e il contagio che si sta producendo. Alla conferenza stampa erano presenti il professor Rodotà, Ugo Mattei, che sono insomma due luminari del diritto di proprietà e che hanno già partecipato ai lavori di quella commissione Rodotà che per la prima volta definì una proposta di legge che dovrebbe permettere l'inserimento dell'istituto dei beni comuni all'interno del codice civile, una vera e propria rivoluzione da un punto di vista del diritto. E questi studiosi, questo gruppo di studiosi, tra l'altro non solo Rodotà e Mattei, ma stamattina erano presenti anche Paolo Maddalena e molti altri, si sono messi a disposizione per questo lavoro, che crea un'inedita alleanza, come è stata definita da Mattei, tra le pratiche legate ai beni comuni, quindi tutto questo processo di occupazioni, che poi sono appunto un processo di occupazione che poi è restituzione alla cittadinanza di beni, di spazi che sennò rischiano di essere progressivamente privatizzati e dominati dalle logiche della proprietà privata prima di tutto. Un esempio, l'esempio del Pinelli è proprio molto simbolico da questo punto di vista, come l'è stato l'esperienza di Torre Galfa a Milano per Macao, perché sono proprietà che possono essere di riferimento demaniale o di proprietà privata, ma che in generale tutelano una logica proprietaria prettamente speculativa al fine di gestire un territorio per gli interessi di pochissimi, che molto spesso sono soggetti che hanno potere economico dalla loro parte, ma che inevitabilmente entrano in questo momento di rottura dell'equilibrio che è descritto, quel compromesso un po' che è stato trovato nelle Costituzioni dopoguerra, che era un compromesso tra la tutela di questa della proprietà privata e della libera iniziativa economica con però la tutela contestuale dei diritti fondamentali e dei diritti sociali prima di tutto. La rottura è palese proprio emerge in queste situazioni in cui la cittadinanza si muove per restituire questi spazi e viverli e darli a disposizione alla stessa cittadinanza, e però viene sgombrata, come è successo al Pinelli, da forze di polizia che in realtà agiscono a tutela di interessi di privati e quindi non dell'idea di un bene comune che poi è il pubblico nella sua più alta accezione. Questa è la riapertura di questa commissione di studio, è rivoluzionaria, perché invece che mettersi al lavoro nella sede che secondo diciamo la visione tradizionale dovrebbe essere più adatta, che quindi è l'ambito istituzionale, invece entra in un teatro occupato come il Teatro Valle e da questa sede propone un lavoro sul diritto vivo, cioè su un diritto che in realtà è in continuo divenire. Non è quel diritto vivente che i giuristi sanno bene che è in luogo di interpretazione da parte del giudice delle norme, ma è un diritto che si evolve su un piano di legittimità. Rodotà ha descritto giustamente il momento in cui viviamo come un momento di mutamento strutturale, e in momenti di grandi cambiamenti molto spesso succede che il piano della legittimità supera quello della legalità. La legalità rimane indietro proprio perché fa parte di un mondo che sta cambiando e che è in evoluzione, e quindi lotte come quelle dell'occupazione nella rete dei teatri, ma come altri movimenti, tra cui la rete dei comitati della difesa del territorio, le lotte per l'acqua e per le lotte per i beni comuni in generale, stanno portando avanti questo messaggio, cioè che le azioni, anche se illegali, possono essere legittime e trovano consenso in larga parte della popolazione. E la questione del reddito minimo garantito, che circola nel dibattito preelettorale, faremo subito il reddito minimo garantito, dice Grillo, c'è un reddito di sostentamento minimo legato alla social card nell'agenda Monti, cioè una specie di novella tessera per la povertà. Qui invece c'è una proposta di legge strutturata in ogni dettaglio. Così come, non per riferirmi a un lavoro nel quale sono stato coinvolto, per una nuova classificazione dei beni è disponibile il disegno di legge predisposto da una commissione ministeriale che aveva introdotto per la prima volta la categoria dei beni comuni e che era stato fatto proprio dalla Regione Piemonte, presentata al Senato e da un gruppo di senatori. Quindi sono già due proposte strutturate, così come c'è una proposta strutturata di modifica dell'articolo 21, di integrazione dell'articolo 21 della Costituzione per il riconoscimento dell'acqua, della conoscenza in rete, dell'accesso a internet come diritto fondamentale della persona. Ultima considerazione, ci sono dati di realtà senza nessun sostegno di alcun genere sulla proposta di reddito minimo garantito. Sono state raccolte più di 50.000 firme, e che ce ne sono 800.000 che vengono dall'area tedesca e austriaca, dimostrando che questa storia dell'acqua come bene comune non è un'impuntatura italiana di alcuni pazzi, ma riceve in altri paesi perfino più sostegno in questo momento di quanto non accada in Italia. Quindi si smentisca l'idea che qui si fanno dei grandi discorsi e che non si danno indicazioni concrete. Ecco, abbiamo appena ascoltato l'audio dell'intervento del professor Rodotà alla conferenza stampa. Naturalmente parlava anche appunto delle proposte di legge relative a un reddito minimo garantito, che è una misura che viene prevista in tutti i paesi europei, a parte l'Italia e la Grecia, forse non a caso. Diciamo che tutte queste proposte di cui si è parlato oggi, riguardanti i beni comuni, soprattutto legate a questo tema, entrano in un ambito di una contesa elettorale che invece è completamente disinteressata a questi temi, che in realtà sono i temi che interessano la comunità, che dovrebbe essere rappresentata proprio da coloro che dopo andranno ad essere eletti. E questo naturalmente pone una problematica riguardo alla politica con cui noi ci confrontiamo, e riguardo anche a quel processo costituente di cui accennavo prima, che richiama la visione di uno dei padri fondatori della Costituzione americana, Madison, che sosteneva che i processi costituenti sono sempre relativi alla tutela di una minoranza proprietaria nei confronti di una minoranza che sennò potrebbe mettere in pericolo questa proprietà dei pochi. Ecco, questo è il momento in cui questa dinamica deve cambiare e la democrazia reale si può riaffermare. E continuiamo. Adesso con basta. Tutto il nostro fondo. Ti lascio e mi metto coi beni comuni. I beni comuni sono un apostrofo rosa tra pubblico e privato. Ariete, Con la luna crescente in secondo campo è difficile presagire qualcosa di piccante. Per non sentirvi troppo soli in questo giorno, potrete sempre ricorrere ad un buon vecchio amico, ma non ambite a qualcosa di più esotico del divano di casa vostra. Toro. Venere ancora in dissonanza e la luna crescente vi sconsigliano di intavolare le vostre consuete ed infinite discussioni su beghe familiari o di lavoro. Almeno per oggi fate a meno della vostra logorrea, parlate piuttosto di qualcosa di frivolo, di leggero, se proprio non ce la fate a stare zitti. Gemelli, siete distratti dall'amore, vi appoggio. Attenzione però, che gli occhi per amore e per curiosità brillano in entrambi i casi, ma non allo stesso modo, e questo lo dovete sapere. Cancro, lasciate che i vostri spazi siano vostri, non smaniate nel trascinare il partner o chi vi piace in ciò che fate, aspettate che sia lui a chiedervelo e se non lo fate, state da soli, senza fare il muso, per favore. Leone, tattiche del tipo faccio finta di non essere interessato così lei si avvicina, in questo momento non funzionano. Vergine, staccate la spina, ci ripensiamo a primavera inoltrata. Cosa è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto, il curriculum dovrebbe essere breve. È d'obbligo concisione e selezione dei fatti. Cambiare passaggi in indirizzi, ricordi certi in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Non conta di più chi ti conosce e chi conosci tu. I viaggi solo se all'estero. L'appartenenza a un che, ma senza un perché. Onorificenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso, se ti evitassi. Sorvola su cani, gatti, uccelli, cianfrusaglie del passato, amici, sogni. Meglio il prezzo che il valore. E il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa che non dove va colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio scoperto. È la sua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta. Musica. A 10 anni ho iniziato a studiare musica in una piccola banda musicale di Reggio Calabria, banda musicale Regione Patria, città di Archi. Un anno dopo ho iniziato a suonare, il mio strumento era il rullante. Per 5 anni ho suonato questo strumento, aiutato da un vecchio musicista, Don Paolino si chiamava. E per lui ero diventato come un figlio. Preso dalla musica incominciai a guardare anche altri strumenti: la grancassa, i piatti, la tromba, il corno. Nell'anno 1998 mi iscrissi al Conservatorio di Musica Francesco Cilea per fare gli esami da esterno con il professore Geria. I posti erano 4 e arrivai 6 in graduatoria. E così, preso dalla malinconia, lasciai perdere. Incominciai allora a studiare la batteria, continuando sempre a suonare in banda. Ho fatto dei concerti di musica alla Tosca, alla Traviata, Cavalleria Rusticana, Il Contadino e il Poeta, eccetera, eccetera. Abbiamo partecipato con la mia banda a una gara bandistica in Aspromonte. Siamo arrivati al 3º posto. Ho partecipato 2 volte al collegamento in diretta con Antonella Elia e la Fiumara con Mino Reitano. Ho partecipato a delle riprese fatte sulla Spromonte da Rai 3 al Santuario della Madonna di Polsi e noi mentre suonavamo delle mazurche, porche, tarantelle. Ho partecipato come musicista sempre a una piccola corrida, arrivando al 1º posto come organettista. Ho fatto dei contratti di musicisti con altre bande, Bagnara Calabria, con il quale abbiamo fatto degli spettacoli per tutta la Calabria, Mosorrofa, per suonare nelle feste più importanti, che dicevano che era la meglio banda. Ho partecipato a un coro polifonico a 4 voci dispari, di cui io facevo la parte del basso pur essendo baritono. Ho partecipato ogni anno a dei concerti di musica per la festa in parrocchia e anche in quelle vicine. Ho fatto dei concerti di marce militari in pubblico, ho suonato anche delle marce funebri anche se in brutti momenti per gli altri. Eterna pace, pace eterna, tormento, mater dolorosa. Ognuna durava mezz'ora. Con queste 4 tiravamo tutto il funerale e si suonavano con il tamburo scordato. Questo è il particolare. La cosa più divertente che ho fatto è una festa in un paesino della Calabria chiamato Calanna, che come usanza ogni anno la gente veniva allietata dalla nostra musica, svegliandosi alle 4 di mattina con dei ballabili fatti da noi, cioè 5 solisti: basso tuba, rullante, gran cassa e fisarmonica, che per tradizione si va prima per svegliare la gente, che poi verso le 5 del mattino la gente ci invita dolcemente a prendere del caffè e dei biscottini. Alle 7 si fa di nuovo il giro di tutto il paese con la banda a completo, però poi si pranza in una tavolata tutti insieme, in una grande bella tavolata piena di capicollo, olive, casarecce, buon vino in quantità e tanta altra roba genuina. La musica per me è stata sempre una passione e nient'altro, mi piace e lo faccio. Che io possa essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Ama l'erba suavemente delicata, è un profumo che dà gli spasimi. Ah, tu non fossi mai nato, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò, tu non sarai più sola. Ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto, si cura con l'udito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Bene comune e tosse non si possono nascondere. Bilancia. Siete baciati dalla fortuna. Avete ciò che avete sempre desiderato. Concedetevi qualche deviazione ogni tanto rispetto a ciò che credete giusto. Scorpione. Incontri clandestini. Per qualche giorno potete concedervi qualche extra sentimentale, ve lo meritate, ma poi fate chiarezza, non tanto per voi che siete capaci di essere veri e concreti anche in situazioni ambigue, ma per chi vi ama e chi vi sta accanto. Sagittario, osate, ve lo potete permettere. Proponete, anche se vi sembra assurdo. Non è detto che certe cose siano solo vostre perversioni, qualcuno potrebbe sempre apprezzare. Capricorno, l'amore non si può valutare in termini di investimento. Meritereste di stare un po' da soli. Purtroppo siete pieni di paure, ma la solitudine non vi spaventa affatto. Fate un esperimento. Aprite il portafoglio. Può essere che magicamente vi si apra anche il cuore. Acquario. È come se vi trovaste ad un infinito buffet. Mangiate a sazietà e se esagerate, perché lo farete, provate a non pentirvi. Provate con un digestivo o un amaro. Pesci, toglietevi dalla testa che si possa evitare di far del male a qualcuno. Per la paura di ferire qualcuno rischiate di essere disonesti e ambigui. Siate diretti e se qualcuno soffrirà, sappiate che non è per causa vostra, ma perché ha i suoi buoni motivi. Oh, fais, je veux et je viens. Bene, grazie alla nostra astrologa andiamo verso la chiusura di questa puntata. Questa dolce voce ha calmato un po' tutti gli animi, soprattutto il mio, ne sono molto felice. Allora, per andare in conclusione, volevo ricordare quindi le prove aperte di Romeo e Giulietta, aperte a chiunque voglia venire a seguire il lavoro creativo che precede uno spettacolo. Prove aperte di Binasco dalle 10 alle 18 tutti i giorni, spegnendo i cellulari, aprendo gli occhi, le orecchie, il cuore e chiudendo la bocca. E poi invece, sempre oggi, per concludere questa giornata abbastanza affollata di appuntamenti, stasera horror vacui contro amore, la solitudine contro l'amore, più o meno vero, più o meno finto, più o meno in crisi. Vi proponiamo una serata completamente al buio tra i velluti del Valle Occupato. Ci saremo noi, insomma ci saranno varie sorprese e poi la proiezione di un horror d'amore che si chiama Lasciami entrare. E prima di concludere definitivamente questa puntata con la quale vi lasceremo con un piccolo estratto in francese che non vi tradurremo perché anche quello è lingua, suono e recitazione, vi lasciamo con un'altra notizia molto importante che è ancora una volta politica, perché parliamo di un extravalle che stiamo seguendo da un po' di tempo e che fa parte di questa lotta, in presenza di un personaggio molto importante che scoprirete tra poco. Eccolo qua, allora noi abbiamo l'onore di avere questo personaggio, ma intanto diamo l'appuntamento sabato 16 alle ore 17:30 davanti al Teatro Quarticciolo, che appunto è nella zona che conoscete bene, insomma l'intersecazione fra la Prenestina e la Palmiro Togliatti, e ci sarà una manifestazione cittadina aperta a tutta la città con i lavoratori dei teatri di Quarticciolo di Torbella Monaca, con i cittadini dei municipi Sesto, Settimo e Ottavo, con gli studenti e con quegli artisti e quelle associazioni e compagnie teatrali che hanno aderito alla preoccupante nostra mozione d'ordine per fermare questo terribile bando della Casa dei Teatri. E rispetto a questo io adesso vorrei intervistare il nostro ospite illustre e gli vorrei chiedere: ma come pensate, pensate voi come istituzione di risolvere il problema di un teatro aperto e partecipato in una città come Roma? Ci risponderà Gabriele Lavia. Beh, la soluzione è ontica. La verità intima della realtà, del reale, è la contraddizione. Ho capito, questo mi pare che sia una risposta proprio. Senta, ma invece il problema dei lavoratori che sostanzialmente verranno rimossi da questi teatri e destinati non si sa dove, ecco, secondo lei è giusto perdere la professionalità e la qualità di questi lavoratori per attuare una logica politica un po' scellerata? No, guardi, il teatro è un nulla fondamentalmente, e quindi perdere il lavoro, ma tutti perdiamo qualcosa. Non ha senso la vita, non ha senso il lavoro. Io ho recitato per 650 volte l'Amleto, non ho mai capito nulla. Bravo! Dell'Amleto, ma io comunque sia l'ho sempre letto almeno 2000 volte. Ho letto l'Amleto 2000 volte, 2500 volte. E quindi ecco, l'importante alle volte è semplicemente un seno. Toccare un seno alle volte aiuta. Beh, queste sue dichiarazioni ci preoccupano un po', perché noi vorremmo anche un teatro aperto alla formazione, ai bambini, al teatro ragazzi, alle scuole. Ecco, insomma, con questi presupposti che lei ci sta dando, siamo preoccupati per il futuro, diciamo, un po', non solo del teatro, ma forse anche dell'educazione dei nostri figli. Comunque, ecco, rispetto a questo, per esempio, le chiedo, che futuro ha il teatro concepito così come un ente privato chiuso alla cittadinanza e chiuso alle possibili suggerimenti che nascono dalla città? Ma sì, guardi, io sono d'accordo con lei, perché il teatro è la vita. Il teatro è importante, perché il teatro, diceva Paolo Grassi, pur conta la storia, pur conta l'esperienza. Ecco, io quando ho lavorato e ho messo in scena il Macbeth, ecco, questo legame fisico forte, carnale tra Macbeth e la moglie, vede, a me piacciono le ragazze giovani. Io sono un bambino. Le mie figlie l'hanno capito, dicono: ma no, ma lasciatelo stare, papino è un bambino. Ecco, io, a me basta giocare con le costruzioni. Se mi date del Lego, io la sera a casa mi diverto a giocare con le costruzioni. Io vorrei semplicemente fidanzarmi con una pediatra, perché lei potrebbe capire che io in fondo sono un bambino. Io sono infelice fin dal giorno della mia nascita. Cosa vuole che ne sappia io delle occupazioni, dei soldi, dei teatri che chiudono? È importante, a me basta semplicemente avere una ragazza giovane. Ecco, grazie. Beh, io credo che veramente con questi presupposti noi possiamo andare molto lontano. E detto questo, vorremmo anche capire un po', signor Lavia, forse le diamo un suggerimento. È meglio che non si fa vedere a piede libero per i quartieri del quarticciolo e Tor Bella Monaca? Non credo che finirà molto bene. Detto questo, la salutiamo e speriamo di non vederla mai più nei nostri teatri. Grazie, arrivederci. Regarde, regarde, regarde la danse. Regarde dans la danse, il danse et regarde. Il s'en va, mais il revient. Il s'assoit et puis il repart. Une blanche, un noir, deux blanches. Mais l'une, c'est un homme et l'autre non plus. Regarde, regarde, regarde par la danse. Un double et un miroir. C'est la mort, c'est l'amour. C'est un noir, c'est du bleu. Ce sont les corps qui rugissent. Regardez cette danse par la joie des enfants. Que leurs yeux resplendissent, qu'ils se gorgent, se nourrissent. Regarde, regarde, regarde par la danse, les yeux intrigués qui saluent tous ton corps et avec tout ton être. Les tics, les manies, les portées, les porteurs, le travail, la sueur, le regard autour de toi. Regarde, regarde, regarde toi qui danse, que ton corps soit sincère, respecté et joyeux, que tu sois cet humain que la danse dévoile, cet humain humanisé par un corps qui s'exprime. Regarde, regarde, regarde avec la danse. Que le monde te parle, te confie son tempo. C'est un souffle, un respiro, un joyeux battement. C'est la danse de vie que la vie met en scène. Un langage commun que tout le monde chantonne. Un regard sur le monde qui nous aide à la vie. Thank you. veux, je viens. Je veux et je viens.